Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio e soprattutto buon inizio settimana a tutti, una buona settimana, una settimana che sta partendo bene per i mercati azionari. Adesso vi racconterò cosa sta accadendo e come mai l'Europa è partita così a razzo, un razzo che per la verità sta già rallentando, per cui ancora una volta una giornata che ha tutta l'intenzione di trasformarsi in incerta, ma lo vedremo tra poco. Di cosa parliamo oggi nella nostra trasmissione? Allora intanto comincio con il dirvi che oggi con il Sole 24 Ore trovate un super dossier dedicato alle carte di credito. Oggi entra in vigore il decreto con il quale il nostro ordinamento recepisce la direttiva europea sui servizi di pagamento. Cambieranno un po' di cose, ci vorranno dei mesi naturalmente, ma è meglio cominciare a prendere confidenza con queste novità. Il tutto con l'obiettivo di semplificare i processi di pagamento e soprattutto di rendere la situazione italiana uguale a quella degli altri paesi europei. I bonifici saranno più veloci, ci saranno meno danni in termini di oneri, in termini economici per chi perde per esempio la carta di credito, ma poi c'è anche un'altra novità, anche questa ci verranno un po' di mesi prima di vederla concretizzarsi, però è molto interessante. Nasceranno nuovi istituti di pagamento, vale a dire oltre alle banche, alle poste, anche per esempio la grande distribuzione o i gestori di telefonini potranno emettere carte di credito. E allora stamattina tutto questo ci verrà illustrato naturalmente da chi si interessa direttamente a questi argomenti, sia dal punto di vista giornalistico ma anche gli addetti ai lavori. Intanto Vito Lops, collega del Sole 24 Ore, che ha curato insieme ad altri colleghi naturalmente il dossier di oggi. Vito, ciao e bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno e bentornato, bentrovato anzi, perché credo che sia la prima volta che viene a Salva Danaio il dottor Luigi Brescia, responsabile strategie corporate di SIA SSB. Poi spiegheremo ai nostri ascoltatori che cosa fa la vostra azienda. Benvenuto. Buongiorno a tutti. E un bentornato invece ad Alessandro Zollo, responsabile sistemi e servizi di pagamento retail e segretario generale del consorzio Bancomat dell'ABI, l'associazione delle banche italiane. Dottor Zollo, bentornato. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. 800240024 il numero verde per gli interventi degli ascoltatori, perché naturalmente oltre a tutto il panorama di novità che ci aspetta sia per quello che riguarda i sistemi di pagamento ma anche per il mondo carte, ovviamente vorremmo anche sentire la vostra su un altro tema che è il solito, quello che affrontiamo molto spesso a Salva Danaio, cioè come dire, l'irriducibile del contante. Perché non vi convertite ancora alla moneta di pagamento di plastica, la moneta elettronica? Questo è un tema che affrontiamo molto spesso, cogliendo anche le vostre perplessità che stamattina magari cercheremo di scalfire se possibile. Prima di partire con la nostra scheda, con il nostro argomento, vi dicevo la borsa, giornata che è partita piuttosto bene. Stamattina avevamo sugli indici europei rialzi di un punto e mezzo, perché si sta concretizzando con ancora molti pochi dettagli per la verità il piano franco-tedesco per il salvataggio della Grecia, e quindi vi dicevo appunto gli indici stamattina stavano correndo notevolmente, ma adesso vedo già un certo rallentatore soprattutto a Londra e Milano, che sono un po' i fanalini di coda della seduta di stamattina. Londra più 0,24%, Milano guadagna lo 0,4%, meglio vanno le cose a Francoforte più 1,36% e Parigi più 0,94%. A Piazza Affari oggi il mercato punta su Mondadori più 2, Pirelli più 1,77, Lottomatica più 1,66, Impregilo in rialzo di un punto e mezzo con Parmalat, Telecom e CIR. Segno meno invece su Mediolanum che perde lo 0,66%, Fondiaria meno 0,47%, Mediobanca meno 0,45%, Generali meno 0,42%. L'euro stamattina si era svegliato di buon umore, sul dollaro quotava qualcosa come 1,36,50, almeno era arrivato su quei livelli, adesso invece ha ingranato anche in questo caso la marcia indietro e quota 1,35,91. Insomma, di questo piano di salvataggio della Grecia aspettiamo ulteriori dettagli. Noi peraltro ne parleremo anche domani a Salva Danaio, dando un'occhiata anche un po' come sempre agli scenari di mercato. Adesso lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, sentiamo un po' quali sono le novità che prendono il via da oggi e che riguarderanno i sistemi di pagamento. Entra in vigore oggi la nuova normativa europea sui sistemi di pagamento elettronici. Direttiva importante perché dà vita ai nuovi istituti di pagamento. Che cosa sono? Si tratta di nuovi intermediari che, proprio come le banche e le poste, potranno offrire carte di credito e finanziamenti ai loro clienti se in possesso dei requisiti stabiliti da Banca Italia. Chi già dispone di una grossa rete capillare di distribuzione e possiede quindi un grande numero di clienti, come una compagnia telefonica o una catena di supermercati, potrà facilmente candidarsi a diventare un istituto di questo tipo. Uno degli obiettivi della nuova normativa è infatti quello di allargare il mercato, favorendo quindi una maggiore qualità per il consumatore. Accanto ai tradizionali sistemi di pagamento come la carta di credito, la carta revolving che rateizza il saldo del conto applicando tassi di interesse, ci sono poi le carte co-branded, rilasciate da banche o istituti finanziari in collaborazione con grandi marchi della grande distribuzione, con lo scopo di fidelizzare i clienti e offrire servizi aggiuntivi. Si aggiungono poi le carte di debito e le carte prepagate. Sono disponibili i conti correnti semplici o i conti correnti tascabili, i pagamenti per mezzo del telefonino o la carta contactless, che permetterà di pagare senza utilizzare il terminale POS o firmare lo scontrino. Le novità sul mercato sono quindi tante. Resta però da vedere quanti di questi strumenti si dimostreranno utili per i consumatori, quanti avranno rapida diffusione o quanti ancora dovranno essere perfezionati. Dato anche, come dire, questo atteggiamento che rimane abbastanza rigido in molte famiglie italiane di non voler assolutamente convertirsi alla moneta di plastica ma voler utilizzare il contante. Comunque, insomma, ci sono tanti aspetti da affrontare questa mattina. Noi nella nostra scheda abbiamo dato spazio e maggiore rilevanza alla novità forse più originale, che è la nascita di questi nuovi istituti di pagamento, ma certo che prima di vederli poi concretamente operativi qualche mese passerà. Di fatto oggi, 1 marzo 2010, la novità più importante è che intanto, per esempio, i bonifici bancari dovrebbero essere più veloci. Comincio subito con il dottor Zollo dell'ABI, tanto per dare invece qualche informazione in più sulla novità di maggior portata che parte da oggi. Dottor Zollo. Sì, la direttiva da questo punto di vista consente ai cittadini, che poi sono i clienti delle banche, di poter avere di poter disporre del denaro entro un giorno. C'è da dire che questa attività potrà essere svolta da qui al 2012, quindi le banche si adegueranno nei prossimi tre anni, però c'è anche da dire che alcune banche già effettuano questo tipo di servizio, quindi insomma sarà un allineamento graduale, ma c'è già una realtà che corrisponde a questo tipo di iniziativa. Più in generale, se posso, certo, deve. La direttiva, appunto, come diceva lei, allarga le possibilità per soggetti non bancari per poter offrire servizi di pagamento. Questo è il caposaldo della direttiva, che nasce appunto dall'Europa e che tutti i paesi dell'Europa hanno recepito, e che quindi consentirà a soggetti come gli operatori telefonici piuttosto che la grande distribuzione di poter diventare tecnicamente delle payment institution, quindi dovranno avere delle caratteristiche e poi la Banca d'Italia, nel caso dell'Italia, come dire, darà l'autorizzazione a questo tipo di attività. Nel frattempo, tra l'altro, lo ricordo, dottor Zollo, Banca Italia proprio venerdì scorso ha pubblicato la normativa di vigilanza relativa a questa nuova forma di intermediari. Esatto, ha fatto, ha dato seguito a quello che la direttiva aveva già tracciato e consentirà questo tipo di attività a questi soggetti. Noi come sistema bancario, stante la arretratezza dei nostri sistemi di pagamento elettronici, anche se con qualche numero che ci mostra un miglioramento, vediamo soltanto di buon occhio questo tipo di possibilità, perché evidentemente il contante, come diceva lei, ma magari ci torniamo più avanti, sì, è il nostro nemico da combattere. Anche perché costa al sistema, lo diceva proprio lei, lo ha rilasciato queste dichiarazioni al nostro Vito Lops sul Sole 24 Ore, è una situazione che costa 10 miliardi di euro l'anno al sistema paese. Poi su queste cifre ci torniamo. Quando dottor Zollo ha detto che abbiamo dei sistemi di pagamento arretrati, il dottor Brescia di CASSB ha storto un po' il naso, naturalmente, perché, no, a parte questo, insomma, ha fatto una faccia strana, nel senso che sì, può essere, come dire, un'affermazione forte. Vuole precisare subito? Sì. Zollo, sì. Sì, no, volevo dire, noi non abbiamo sistemi di pagamento arretrati, sì. Noi abbiamo dei sistemi di pagamento tra i più veloci in Europa e forse nel mondo. Noi abbiamo, tanto per ricordare le carte, tante carte nelle tasche degli italiani, tante macchinette, i POS dove poterle utilizzare, ma abbiamo poco utilizzo. Noi abbiamo dei tassi di utilizzo delle carte di credito e di debito, dei bancomat e dei circuiti internazionali assolutamente con dei numeri che sono alla metà di utilizzo, del tasso di utilizzo dell'Europa, della media europea. Dal punto di vista dell'infrastruttura c'è, tutti abbiamo le possibilità, ma poi gli italiani spesso usano il contante, quindi volevo precisare, i sistemi di pagamenti italiani sono all'avanguardia. Senz'altro. Allora, lo facciamo confermare al dottor Luigi Brescia, anche per chi teme e non usa le carte nel nostro paese, che sia così facile clonare il nostro strumento di pagamento piuttosto che copiarlo, farne chissà quale uso. In realtà, come dire, c'è un controllo, una vigilanza che sono assolutamente rigidi, e voi anche come fornitori di soluzioni, poi ci spiega appunto che cosa fa CSB, di soluzione informatica, l'assoluta avanguardia appunto alle banche. È chiaro che questo è il primo tema, no? Di cui si discute. Il tema della sicurezza è ovviamente per le banche un tema cardine, quindi tutto quello che è legato alla sicurezza delle transazioni, alla sicurezza del movimentazione di denaro, quindi dei pagamenti, come nello specifico la direttiva stessa riporta, e quindi degli strumenti, dei differenti strumenti di pagamento che vengono utilizzati dai cittadini, dei consumatori, è sostanzialmente al centro dell'attenzione del sistema bancario. Allora, CSSB, giusto per inquadrare un attimino il ruolo della nostra società, è storicamente nata come società interbancaria, dopo una serie di trasformazioni che sono classiche dei nostri tempi, ha assunto questa connotazione nuova, diciamo, mettendo insieme due realtà come appunto la SIA e la SSB, da cui nasce il nome CSSB, e incorpora le competenze specifiche di questi due mondi, quindi il mondo interbancario, quindi la rete nazionale interbancaria, che significa tutte le transazioni che avvengono all'interno del circuito delle banche, e il mondo, diciamo, dei mercati finanziari, insieme al mondo dei pagamenti che ereditiamo più dalla parte, diciamo, storica di SSB, legato più alla parte retail, consumer, quindi alle carte, quindi le quattro linee di business fondamentali che noi siamo in grado di coprire: carte, pagamenti, rete e mercati finanziari. Quindi è un ruolo istituzionale. Pochi sanno che in realtà il nostro ruolo è talmente riconosciuto di prestigio a livello europeo che presso di noi è presente l'unica vera CH che esiste a livello europeo, che è EBA, Euro Banking Association, ha realizzato questa CH mettendo insieme le principali banche finanziarie europee della piazza finanziaria, e questo a maggior credito del prestigio che in qualche modo viene riconosciuto al nostro paese in termini di tecnologia e quindi anche di sicurezza. Ora, il tema della sicurezza appunto è un tema chiave, ed è soprattutto una questione di percezione della sicurezza. È evidente che è una continua battaglia, continuo aggiornamento tecnologico e continua evoluzione anche tecnologica. Perché insomma anche il tema della frode è interessante anche da questo punto di vista, e conosco molto bene le forze dell'ordine appunto, che devono sempre andare a caccia di questi personaggi che riescono a rendere le frodi sempre più sofisticate, per cui è chiaro che anche da questo punto di vista l'attenzione deve essere sempre al massimo. L'universo delle carte di credito e dei sistemi di pagamento questa mattina a Salvadanaio a 360 gradi, per la verità apriamo un argomento, apriamo tre parentesi, dovremmo veramente, come dire, far durare questa trasmissione per tutto il pomeriggio, ma cerchiamo un po' di capire quali sono le novità più importanti di cui dobbiamo rendervi conto. Intanto il recepimento da parte del nostro paese della PSD, la direttiva europea che ha l'obiettivo di uniformare i sistemi di pagamento in tutta Europa, e quindi anche l'Italia naturalmente si adegua agli standard di tutti gli altri paesi europei. Poi il tema delle carte di credito, affrontato questa mattina dal dossier del lunedì del Sole 24 Ore, un universo molto articolato, spiega il collega Vito Lops. Vito, ti leggo un'osservazione di un'ascoltatrice di Roma che dice: a Parigi ho pagato 2,70 euro per dei croissant con la carta di credito, in Italia mi avrebbero mandato a quel paese non avendo contanti al momento. E allora di questo tipo potrei leggerne altre 10, questo è il tema che io racconto tante altre volte, avendo frequentato qualche volta gli Stati Uniti. Si può fare colazione, pagare con la carta di credito anche davvero un cappuccino di $3, e qua immaginiamo il turista giapponese che vada anche nel bar più bello, più elegante del centro di Milano, che tira fuori la carta di credito per pagare il cappuccino. Questo potrebbe essere, come dire, tutta una serie di situazioni di ostacolo superate con il contactless. Ci spieghi cosa c'è dietro questa parola che sembra così complessa e complicata? Sì, dietro questo termine si nascondono sostanzialmente tutte le operazioni, le transazioni che avvengono senza effettuare diciamo, senza strisciare la carta o senza inserirla nel terminale, ma semplicemente avvicinandola, perché queste carte contactless sono dotate di un chip e di una tecnologia RFID, in modo tale che quindi attraverso le onde radio vengono letti i dati dal terminale senza che sia necessario un contatto fisico. E per quanto riguarda l'Italia, diciamo che l'ascoltatrice dovrà ancora un po' aspettare, perché sostanzialmente sono in corso le sperimentazioni a Milano, avviate da parte di Intesa San Paolo e Banca Popolare di Milano. Per quanto riguarda i circuiti, invece, sono già pronti da tempo, ovvero Mastercard ha lanciato la soluzione PayPass, così come Visa ha lanciato la soluzione PayWave. Quindi dal punto di vista dei circuiti l'offerta è pronta, dal punto di vista degli emittenti ci si sta attrezzando con delle sperimentazioni, e potrebbe essere assolutamente una evoluzione per fare in modo che gli italiani utilizzino più la carta elettronica. Infatti, no, tra l'altro spero di non aver bruciato la domanda di Jonathan da Palermo, che saluto. Jonathan, buongiorno, perché mi pare che lei volesse sapere qualcosa di proprio per rispetto ai micropagamenti. Lei parlava poc'anzi di scetticismo da parte dei possibili utilizzatori. Sì. E quindi? Pronto? Sì, sì, la sento, Jonathan. Ecco, Jonathan è caduto e vabbè, non sapremo mai quello che voleva dirci a proposito dello scetticismo. Allora andiamo da Alessio, da Rimini, che invece apre, come dire, un'altra parentesi molto interessante, e che è sempre comunque un'altra faccia della medaglia di cui stiamo parlando questa mattina, perché in Italia la carta non si usa. Buongiorno Alessio. Buongiorno, buongiorno a lei, ai suoi ascoltatori. Sì. Un argomento che bisogna secondo me parlare è questo: è vero che bisognerebbe usare la carta di credito dovunque, che io la uso dovunque, ma il problema è che tanti fanno finta che non funziona e alcuni applicano anche la percentuale del 3-4% su importi superiori a 1000 euro. Sono soprattutto i piccoli esercizi commerciali, sì. Piccoli esercizi commerciali, ma io ho trovato anche grandi esercizi commerciali che mi hanno applicato il 3-4% in più sulla spesa fatta su carta di credito. Pertanto penso che questo sia un grande problema. Io alcune volte mi sono trovato in alcuni ristoranti in dove io pagavo 50-60 euro, sono dovuto uscire, fare il bancomat, rientrare e portare i soldi, perché dicevo, è vero, che i posti non funzionavano. No, no, glielo confermo, perché è capitato anche a me. Naturalmente ci si fa il conto quando una persona si presenta poi alla cassa a pagare con la carta. Ovviamente il conto, allora no, non ti posso fare lo sconto, il conto diventa più alto. Alessio, sì, è una cosa che succede, e piuttosto anche molto frequentemente. Le leggo anche qualche altro messaggio, poi mi confronto con Zollo e Brescia su questi argomenti. Fabio da Viareggio, per esempio, rileva: non è forse un problema di costi troppo elevati per gli esercenti, che di conseguenza non sono incentivati a farle usare? E altri ascoltatori lo stesso segnalano, per esempio, che non si possono usare dal parrucchiere piuttosto che in altri, appunto, tipi di negozi. Allora, Alessandro Zollo, quante volte con lei abbiamo affrontato questo argomento? Non abbiamo più fiato? Sì, no, ancora un po' ce n'abbiamo. Ce n'abbiamo. Credo che sia importante. Allora, il tema dei costi è, come dire, è un falso problema, nel senso che in quel bar di Parigi o di Bruxelles dove si paga il cornetto, o piuttosto al giornalaio dove si compra il giornale, non c'è un livello di costi diverso. Questo lo dice la Banca Centrale in una... la Commissione Europea, mi scusi, in un documento di qualche tempo fa, dove sottolinea che i costi delle carte di pagamento in Italia non sono superiori alla media, anzi per certi aspetti sono anche migliori. Quindi non è un problema di costo. Il negoziante di Terni pagherebbe o paga quello che mediamente paga il negoziante di Lione. Quindi questo è il primo punto. C'è una differenza importante nel fatto che ci sia un'accettazione di un certo tipo da parte degli esercenti, è che l'esercente in Italia è molto più frammentato, quindi c'è un'economia molto più frastagliata e che non porta a un'aggregazione di spesa. Mi spiego meglio. Negli altri paesi europei c'è la grande distribuzione, quindi le grandi catene che sono molto più diciamo presenti, e quindi questo fa sì che la gente va di più in questi posti, quindi paga e fa la spesa in questi posti, e per ovvie ragioni compra più cose e il ticket medio di spesa è più elevato. Allora in quel caso il contante, come dire, è meno facile da utilizzare, ma quando lo scontrino è molto più piccolo è evidente che invece esiste un problema di spesa. Sì, poi ce ne metto un altro di argomento, ce lo metto io, se il dottor Zolo non vuole dire che naturalmente poi la tentazione anche di non tracciare i pagamenti è spesso piuttosto forte, dottor Brescia, se vuole intervenire insomma il CSB. Cioè il tema del sommerso è un tema chiave, cioè la direttiva nel cercare di modificare la percezione che ha il consumatore rispetto agli strumenti di pagamento elettronici costruisce un impianto normativo che ha proprio un po' questa finalità. Da un lato aumentare il livello di confidenza del consumatore finale rispetto agli strumenti di pagamento elettronico, chiarendo bene che cosa è dovuto, la trasparenza rispetto alla relazione contrattuale con chi gli offrirà i servizi di pagamento, spingendo quindi in maniera importante verso l'uso di questi strumenti, perché ripeto, come dicevamo prima, la sicurezza è soprattutto un elemento percepito. Avendo ben chiaro come la normativa specifica, e Banca d'Italia in questo senso ha recepito in maniera molto forte la direttiva, molto stringente. I consumatori hanno un livello di tutela estremamente elevato rispetto, diciamo, a una situazione di evoluzione che c'era stata in questi finora, e comunque, ripeto, dobbiamo aspettare qualche anno perché si vada a regime. Detto questo, ovviamente il passaggio all'elettronico significa anche far emergere un sommerso che credo valga diversi punti percentuali del PIL. Stiamo parlando di cifre molto, molto importanti. Elevate. Infatti il dottor Zollo è proprio l'ABI che ha fatto circolare questa cifra, quanto costa anche la gestione del denaro contante al sistema paese, 10 miliardi di euro l'anno. Adesso non so se poi ci rientriamo anche con il discorso dell'evasione che facevamo, però... Sì, due numeri. Sul PIL, quando facemmo quello studio notammo che il nero era il 27% del PIL, mentre per quanto riguarda i costi, ricordava bene lei, sono 10 miliardi di euro all'anno per la gestione del contante, quindi i costi assicurativi, il costo di sicurezza, di trasferimento, e su questi 10 miliardi non gravano due elementi. Il primo, che sono 10 miliardi a carico di imprese per due terzi e banche un terzo, ma non ci sono i costi della pubblica amministrazione, che immagino non siano più bassi. E il secondo elemento è che questo dato non prevede e non include i costi cosiddetti sociali, quindi quelli dei furti e delle rapine, che sono due altre gravi, come dire, conseguenze del troppo contante che c'è in giro. Infatti. E ancora tante curiosità che arrivano dagli ascoltatori. Uno, questo bisognerebbe veramente appurarla. Ieri al Forum di Assago, che è l'evento delle più grandi manifestazioni pubbliche a Milano, grandissimi concerti, grandi spettacoli teatrali, ho dovuto correre un chilometro per prelevare, perché non ricevono né bancomat né carta di credito. E insomma, lì immaginiamo, sì, ci sono anche, come dire, piccoli bagarini dove si può vendere, dove si compra una Coca-Cola piuttosto che un po' di popcorn, però ci sono anche gli esercizi commerciali. Vabbè, sarebbe da indagare. Un altro invece ascoltatore, questo magari Vito lo segnalo a te, mi stava segnalando di un negozio di Milano dove si vende tutto a un euro, ma lì prendono tranquillamente la carta di credito anche per un micro pagamento, quindi sarebbe interessante anche andare a vedere. Quante carte attive abbiamo nel nostro paese? Ecco, abbiamo circa 64 milioni di carte attive. Attiva che cosa vuol dire? Che viene utilizzata frequentemente o stata utilizzata una sola volta? Almeno una volta l'anno. Ah. Beh, attiva per modo di dire, però... un modo un po' elastico per definirla attiva. Comunque, questo dato, che è stato diffuso dalla Banca d'Italia, che ha rilasciato in esclusiva per il Sole 24 Ore delle stime sul 2009, evidenzia sostanzialmente che, poi distinguendo tra le varie carte di pagamento, notiamo che per quanto riguarda le carte di credito, nell'ultimo anno sono cresciute del 5% quelle attive, quindi ci sono circa quasi 17 milioni di carte di credito attive, a fronte però di circa oltre 40 milioni di carte di credito. Quindi su questo fronte si apre il dibattito sull'utilizzo delle carte di credito, che in molti casi rimangono in tasca o inutilizzate. Posso fare l'esempio, che forse può venire in mente un po' a tutti gli ascoltatori, delle file al casello autostradale, quando spesso la fila del contante è molto lunga, mentre quelle dove si paga con la carta di credito ci sono una o due macchine, esatto, si può pagare con la carta sia col bancomat, no, tra l'altro poi anche dal casellante teoricamente si può pagare con la carta, però esatto. Se si va, dottor Brescia, se si prende quella via perché si vuole pagare in contanti, esatto, non ci si fida di infilare appunto al casello autostradale la carta. Non si pagano commissioni, non succede assolutamente niente se la prendono. ce la ridanno? Sì, poi uno dovrebbe fare avanti e dietro da, non so, da Trento a Palermo per cercare di rubare che cosa, cioè. Infatti, e lo so, però ancora un po' di resistenza ce l'abbiamo e bisognerebbe veramente fare indagini approfondite sulle ragioni di questo atteggiamento. Comunque, Giuseppe della provincia di Palermo, buongiorno, andiamo ai nuovi istituti di pagamento. Buongiorno a lei. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere soltanto come mai nelle agenzie dove si paga il bollo, oppure nei luoghi abilitati, ricevitorie, tabaccherie, non posso pagare il bollo auto con la carta di credito, completamente, non l'accetta nessuna. Dottor Zollo, lei mi sa rispondere? Semplicemente perché non sono abilitati. Non c'è un vincolo da parte nostra né del banco mantenere le carte di credito, c'è una possibilità da parte dell'esercente, in quel caso il tabaccaio, che evidentemente non ritiene di dover accettare quel tipo di pagamento con le carte, cioè non c'è una motivazione tecnica o di tipo normativo, cioè un approccio al mercato di questo tipo, non nient'altro. Se posso però, scusi, per un appendice, diciamo al suo collega per quanto riguarda l'articolo, no? Tanto proprio per capirci sull'utilizzo, no? In Europa chi ha le carte in tasca fa 56 operazioni all'anno mediamente, non chi non che ovviamente facciamo la media solo su chi ce le ha. In Italia chi ce le ha, e quindi non è un problema di averle ma di utilizzarle, ne fa 23, esattamente la metà. Quindi tiriamo molto di meno fuori la carta dal portafoglio, probabilmente perché in alcune occasioni non abbiamo la possibilità, come ci diceva adesso il radioascoltatore, però in molte altre c'è proprio un approccio che dice ma fino a 50-60 euro tiro fuori il contante, è più veloce, e qui forse la tecnologia che diceva prima il collega ci potrà aiutare in futuro. E infatti. Allora, Alessandro da Torino, perché vorrei andare col dottor Brescia, visto che l'ha letta in lungo e in largo anche alla precisazione che la Banca d'Italia, la normativa di vigilanza che la Banca d'Italia ha pubblicato settimana scorsa sui nuovi istituti di pagamento. Allora prendiamo per lasciarla rispondere la domanda di Alessandro da Torino. Alessandro. Eccomi. Allora, io semplicemente ho iniziato a preoccuparmi quando ho sentito dire da voi che anche la grande distribuzione e le società telefoniche possono iniziare a emettere carte di credito. Io ho l'esperienza della posta, che i postini da un giorno all'altro si sono trasformati in bancari e tutti sappiamo in che razza di condizioni sono, nel senso che la burocrazia è enorme e tante volte non sanno proprio come agire. Nel senso, io ho dovuto andare a chiedere delle deleghe in banca per poter operare, per poter dare una delega su un conto dei miei genitori. Un attimo, alla posta mi hanno chiesto 3 giorni di documenti. Sì. Ed è proprio macchinoso. No, ma io credo. No, Alessandro, guardi, prendiamo atto sicuramente delle sue perplessità, che probabilmente saranno anche le perplessità di tanti altri ascoltatori. Credo che però si comincerà in maniera molto più prudente. Dottor Brescia, allora, quali saranno i primi step di questa novità? Sì, innanzitutto diciamo i soggetti che sono interessati a svolgere questo ruolo, questa nuova figura istituzionale che è stata costituita, cioè la Payment Institution, dovranno fare richiesta in Banca d'Italia e quindi dovranno onorare tutti i requisiti, appunto, di onorabilità che questi soggetti dovranno avere. Banca d'Italia quindi ha un forte controllo su questi soggetti. È anche sì vero che il capitale di vigilanza che in prima istanza viene richiesto per poter svolgere questo lavoro è sensibilmente più basso di quello che ovviamente ha una banca, che invece opera in maniera molto diversa, ma è altresì vero che il livello, diciamo così, di autonomia reale nell'operatività rispetto a quello che è il ruolo invece di una banca è anche molto diverso, cioè la Payment Institution alla fine diventano dei soggetti che offrono servizi di pagamento e possono scegliere diverse tipologie. In appendice ce ne sono riportate 7 tipologie, cioè dalla rimessa dei pagamenti, quindi la possibilità di... Quindi teoricamente io vado alla cassa, faccio la spesa, potrei anche tirar fuori la bolletta della luce e pagarla là. Assolutamente. Questo, tra le altre cose, queste soluzioni in parte sono anche già state realizzate da alcune catene della grande distribuzione, proprio facendo leva sulle infrastrutture tecnologiche che già sono a disposizione senza arrivare, quindi offrendo questi servizi senza trasformarsi in soggetti giuridici in grado di erogare servizi di pagamento. Quindi dicevo, in funzione della tipologia di servizi che questi soggetti vorranno erogare al pubblico, sono previste diverse forme di capitale di vigilanza. In più, una cosa che deve essere molto chiara, i soldi dei consumatori che in qualche modo vengono depositati presso questi soggetti sono garantiti in due modalità. Allora, uno è quella più operativa. Questi soggetti in sostanza dovranno depositare questi soldi presso una banca. Mm-hmm. Quindi alla fine stiamo tornando all'interno di un alveo normativo di garanzia. No? E c'è una franchigia di 100 euro sostanzialmente che può essere lasciata presso questi operatori per gestire l'operatività, diciamo, dei vari soggetti. E l'altro aspetto è che tutto quello che invece è correlato, perché sostanzialmente stiamo parlando di soggetti potenzialmente ibridi, cioè soggetti che fanno anche un altro mestiere come appunto la grande distribuzione, ma tutto quello che è correlato alle logiche del credito, quindi ai finanziamenti, questo avviene attraverso dei soldi che sono di proprietà di questi soggetti e separati rispetto ai soldi degli altri clienti di questi payment institution che invece vogliono solo fare ricorso a pagamento, quindi utilizzare questi soggetti per pagamento. Quindi c'è proprio una distinzione dei capitali a tutela degli interessi delle parti. Situazioni separate. In ogni caso, adesso è ancora abbastanza prematuro per parlare di questa novità. Noi saremo qui a vigilare, quasi come fa la Banca d'Italia, sull'avvento di questi nuovi siti di pagamento. È tutto molto presto. Intanto però stamattina abbiamo ridato un po' così di abbiamo rimesso in moto la nostra osservazione sempre sul mondo delle carte, e vedo che è sempre un tema che piace molto ai nostri ascoltatori. Gli scettici ce ne sono sempre ancora tanti, in tanti ci stanno continuando a scrivere, sempre di tanti che partecipano per esempio ad eventi pubblici e non riescono a pagare con la carta. Insomma, qui credo che il nostro sistema sia perfettamente consapevole di questa situazione, e allora noi ci ritorneremo più avanti. Io devo salutarvi. Vito, abbiamo detto tutto sul dossier di oggi? C'è qualche altro aspetto interessante che secondo te magari può cogliere un po' maggiore attenzione da parte degli ascoltatori? Sì, aggiungerei la grande diffusione delle carte prepagate in Italia, che nell'ultimo anno sono cresciute del 10%, ormai abbiamo quasi 9 milioni di carte prepagate, un utilizzo che è legato anche in particolare al fatto che gli italiani percepiscono questo strumento come più sicuro, nel senso che si limita all'eventuale danno a quanto caricato dallo stesso porto, anche se va precisato che per quanto riguarda le carte di credito, al di là di tutti i sistemi che garantiscono un'ampia copertura, un'ampia sicurezza, c'è anche il discorso che l'eventuale danno, nella peggiore delle ipotesi, è limitato ai 150 euro della franchigia. Quindi si tratta comunque di uno strumento molto sicuro. Grazie a Vito Lops, a Luigi Brescia di CSSB, ad Alessandro Zollo dell'ABI. Salvadanaio termina qua, ci risentiamo domani, parleremo della Grecia, dei mercati. Buona giornata.